ma devo chiudere. Buona giornata a te, Tommy, ti ringrazio e sei stata salutata. Ciao. Ciao Giovanni, no, volevo dire una cosa, è morto Giancarlo, quell'amico nostro che riparava i baracchini, è morto purtroppo. No, mi dispiace, veramente per la miseria che ha. Ho sentito che non era tanto sano, per cui l'hanno sentito a te che non stava bene, mi dispiace veramente. Purtroppo la vita non sta con me. Purtroppo sei un giro lui, è un giro. Mi dispiace veramente. Ok, riprendo con Mario, chiudo io, ciao. Mario, Mario, mi dispiace lui, perché la miseria non è quello che mi ha aggiustato quel ricevitore. Positivo, Mario, positivo, ma te l'ho detto che era malato da allora, che stava combattendo con quella malattia brutta, capito, te l'avevo già detto. Se per caso ci vai, di dare condoglianze da parte mia del mio curriere familiare alla signora, capito? Mi dispiace da cuore. Una persona sincera che avevamo conosciuto a Cari, andarsene così presto, non dico io. Quanti anni ci avevo? 60, 61, era giovanissimo, e quella malattia non perdona mai. Era giovanissimo. Io, lui, sto uscendo con quell'in che ha preso lui in mano, capito? Però l'ho messo il microfono, il microfono suo, lo linkete, e ti sto dicendo che è un bombò. Sì, no, era una brava, per fare quei lavori era l'unico qua in Sardegna, dico la verità, era l'unico, perché faceva tutto dall'A alla Z, era un radioamatore lui, capito, era, e poi faceva il clinico, fatto per lavoro, per la pensione, palazzo, però... lui già lavorava su questo settore elettronico, hai capito? Ripeto, io sto uscendo con quel link a te, quello che ha fatto qualche modifica. È positivo, dai, no, anche a me è morto nel discorso alle 5:30, capito? Mi hanno avvisato subito, me l'hanno detto, mi hanno informato, dico la verità, alla mattina venerdì, io alle 8 sapevo già che lui era mancato. Ma i funerali ce l'hanno già fatti? Sabato alle 4:30, sabato scorso era Mario, sabato scorso, infatti ho fatto qualche amico di radioamatori e gli hanno fatto un qualcosa lì, dai, diciamo, a lui, dai. Mi dispiace, poco tempo due. Porca la miseria, nel tempo di un mese e mezzo due ti radiamaturi, mi dispiace sia per uno che per l'altro, anche quello, non mi ricordo adesso, se non l'ho conosciuto, sai, per la situazione che si trova, mi ha convinto che una persona o capa. Giancarlo, ma guarda Mario, se ti dico era troppo in gamba, era una persona alla troppo, perché era a parte che era onesto, che gli portava un apparato che non funzionava, una cosa all'altra, e ti faceva riparazione di 15 euro. Sai che tu puoi un baracchino e ti fate pagare 15 euro, 20 euro, ma dove non esiste, Mario, non esiste, perché ti prendono il fatto subito dai 50 euro in su, capito? Ma io me ne sono accorto, per il prezzo che aveva fatto con me, capito? E come mai questo prezzo? Dagli questo, felici e contenti. Positivo, lui aveva chiesto un prezzo e tu anzi gli hai mandato un'altra, mi ricordo gli avevi dato un'altra cosa in più, mi ricordo infatti di questo, e lui è rimasto molto contento e di questo fatto, di questa cosa qua, dai. Lui, io ti lascio, Entino mi deve misurare la glicemia, mia figlia e la pressione, sono già le 10:30. Così che ha fatto piacere di sentirci, ma penso che per agosto che ci sentiamo, lui, non ci sono problemi, tanto quel link che te, io non so se te l'avevo detto, no? Ho preso un po' di metri di cavo e me l'ho passato qua vicino al comodino, nel QTH vicino al letto, capito? Per non stare lì alzandomi, andando in camera dove c'è tutti gli apparati e tutto. Già accendo più frequenza adesso lui. Positivo Mario, io perché sono in vettura, sai, in casa non posso accendere che c'è il supermercato, adesso stavo facendo delle commissioni a Pettanietta, sto scendendo in vettura a casa e l'ho acceso e ho sentito a voi parlare e subito sono cercato di entrare, perché ve lo volevo dire Mario, stavo per telefonare, dico la verità, per dirselo Mario, che di questo affatto di Giancarlo, stavo per telefonare dalla settimana scorsa, quando è morto, per fatelo sapere, poi stato rubato a parte, non ho detto niente, te lo sentirò in radio. Ok, naturalmente anche tu ci hai detto lavoro da fare, ti sbrigati, non so tutte le faccende se ricorda una persona, vabbè, ciao lui, no, se non ci sentiamo buon Ferragosto, perché io penso che ci sentiamo, salutami signora, tutto il Correa, a risentirci a quanto prima lui, e devo fare l'insulina e misurarmi la glicemia, ciao. Ciao, ma io tanto sono arrivato a casa, c'è il supermercato e devo chiudere lo stesso, dai.